Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. È il momento di Giulio Caperdoni, come tutti i giorni, fra le 19 e le 20. Una delle ultime Eclettica, uno degli ultimi volumi, da qua al 31 maggio non ho ancora avuto modo di contare quanti ne mancano, però penso così a spanne che saranno attorno alla ventina o poco più. E poi basta, poi si chiuderà e ci sarà l'occasione di conoscersi di persona, perché se è anche vero che tutti voi ci ritenete nel nostro modo di fare radio molto colloquiali, molto familiari, da qui anche la scelta di Rock Family, però effettivamente esiste sempre un diaframma, una distanza fra chi fa e chi ascolta la radio. Ecco, tutto questo cadrà alle 18 e un minuto del 31 di maggio. Stiamo anche pensando a trovare un luogo dove proseguire per la serata e per la notte, una volta spento il segnale, passare serata e notte tutti assieme. www.rockfamily.it sarà il punto di riferimento, oltre a quello che noi potremo dirvi ovviamente anche in onda. A questo proposito c'è un mail che è arrivato da Marina di Genova, che mi tengo buono e che leggerò più avanti nel corso della trasmissione. Per il momento vado ad iniziare come al solito con un altro tipo di lettura. La strinsi un po' intontito, pensando ancora a quello che era accaduto pochi minuti prima. Ritrovai il contatto con la sua mano, gelata, fragile. Se ne accorse, credo, del fatto che per pochi secondi la mia mente fu altrove. Starnutì di colpo e risuonò il rumore improvviso lungo la scala a chiocciola. A questo punto avrei dovuto invitarla a salire. Pensai e lo feci. La mansarda era al settimo piano senza ascensore. Così ebbi tempo di diluire il nervosismo e l'imbarazzo di una proposta che poteva sembrare ambigua. Il primo piano lo passai ripetendomi quanto le fossi sembrato idiota in quella stretta di mano. Al secondo e terzo piano pensai che in fondo aveva sorriso. Il quarto piano lo superammo con incoraggiamenti prefabbricati per raggiungere la vetta. Fu dal quinto piano in poi che iniziai a preoccuparmi delle condizioni in cui avrebbe trovato l'appartamento. Ripercorsi in un lampo quel segmento di mattina che succede al risveglio. Biancheria intima da lavare, impossibile esposizione. Cena della sera precedente poggiata sul comodino. Piatti da lavare ammontati sul piano della cucina e tutti quei dannatissimi vinili improbabili comprati solo per avere la scusa di sostare al negozio e vedere lei, Charlie. Arrivammo al settimo piano che mi augurai che la sua stanchezza comportasse anche un leggero annebbiamento della vista. Giusto il tempo di entrare, lavare i piatti, gettare la cena, nascondere la biancheria e i vinili. Non la guardai finché la porta non fu aperta. Questo era ancora "Dove sei, Charlie?". Una storia di poesia e rock and roll di Holly Orange. The ground, the west one. County Fried Chicken? Best damn chicken in the state. Bring me 4 fried chickens and a Coke. You want chicken wings or chicken legs? 4 fried chickens and a Coke. And some dry white toast, please. You all want anything to drink with that? No, ma'am. A Coke. Il titolo del brano che si è appena chiuso era Beach Home. Future Islands invece è il nome della band. Big Sound come brano e di Ems, le lettere M come band invece ad iniziare questo volume numero 3 di Eclettica, per proseguire con la Francia, con Antibes per la precisione, da cui proviene il progetto M83, dietro cui si nasconde Anthony Gonzalez, in uscita per Mute il 15 di aprile con un nuovo album dal quale vado ad estrarre Graveyard Girl. Però mi sembra che vi avevo promesso la lettura di un mail. Eccolo, è scritto da Marina, da Genova. Naturalmente io ci sarò. Voglio stare con voi fino all'ultimo. Finalmente ti vedremo, così da poter associare un volto quando mi troverò a ricordare questi anni insieme a voi. Per me, bellissimi. Sai cos'è per me ascoltare la vostra musica? È come quando una donna si sente innamorata. Cioè io, quando sono stata innamorata, il fatto di sedermi accanto a quello che era il mio amore mi infondeva un senso di tranquillità, di completezza. Quel sentire di essere a posto, di essere arrivata. E la dolcezza che senti nel cuore, le famose farfalle nella pancia, quel rilassamento che provi. Tutto il corpo si rilascia ed è pronto a gustarsi tutte le emozioni in arrivo con la consapevolezza che sono tutte belle. Yeah. Superammo le navate create dalle alte pile dei libri e la pavimentazione dei dischi. Si stese sul letto sfatto, le prestai una camicia e il pantalone di una vecchia tuta residuato anni Ottanta e le indicai il bagno. Quando tornò, le feci trovare una tazza di tè bollente sul comodino al posto degli avanzi della cena. Tornò a sedersi sul letto, a gambe incrociate, mentre la osservavo dalla poltrona accanto con la coda dell'occhio, tra i sorsi incandescenti. Stringeva la tazza con entrambe le mani, cercando tepore. Le lunghe maniche della camicia a quadri le coprivano le mani fino alle nocche delle dita. Succhiava calore dalla tazza fumante e osservava attorno a sé le pareti della stanza, lo sguardo di un bambino che vede per la prima volta la neve intorno e gira su se stesso per non perdere nulla, per abbracciare tutto. Poggiava gli occhi limpidi e verdi sui personaggi dei poster, singolarmente. Guardava Kerouac gridare qualcosa lungo una strada di San Francisco. Guardava Warhol e la sua espressione da stregone moderno. Guardava il dottor Einstein in un bianco e nero di sogno. Guardava lei, infine, la bianca signora di Milo, esattamente sulla sua testa, fluttuante come un fantasma sotto il grigio velo della pioggia che scrosciava fuori, sempre più forte. Avevano qualcosa, entrambe, nello sguardo, che le rendeva simili, sorelle. Era forse una lieve nota di malinconia, una predisposizione a sentire ogni cosa amplificata nel cuore. Felicità immensa ed immenso dolore, un abbandono ed una privazione insieme. Questo era ancora... Dove sei, Charlie? Una storia di poesia e rock and roll, di Holly Orange. You are born of water. You are made of water. One Timex digital watch broken. One unused prophylactic. One soiled. You come down from above.